Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sono trascorsi 15 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che vieta le sigarette nei locali pubblici chiusi. Facciamo il punto oggi insieme alla dottoressa Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottoressa Pacifici, l'obiettivo principale della legge era quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini sui danni del fumo e di tutelare la salute dei non fumatori. Facciamo il punto della situazione. Quali risultati sono stati raggiunti in questi 15 anni? Risultati molto importanti. Grazie a questa legge abbiamo avuto due effetti principali. Quello di aver indotto quasi un milione di persone a smettere di fumare. Abbiamo, rispetto a 15 anni fa, infatti circa 1,5 milioni di fumatori. E il fenomeno certo si è concentrato tutto nei primi anni perché ha coinvolto quelle persone, ha convinto quelle persone che già erano mature per la cessazione. Quindi è stato un incentivo in più, ma comunque un traguardo molto importante. L'altro traguardo che ritengo veramente importantissimo e che ci portiamo come bagaglio culturale è quello educativo. È stata una legge profondamente gradita a tutta la popolazione e non solo ai non fumatori, ma anche agli stessi fumatori, che sono stati veramente nella maggior parte dei casi molto ligi al rispetto di questa legge. Oggi è diventato un costume non fumare nei luoghi condivisi tra le persone, nei luoghi sociali, sia al lavoro, ma anche nelle case. Sta diventando sempre di più la percentuale di chi non fa fumare nelle proprie case, anche ospiti. E quindi questo significa che questa legge ha veramente inciso sul comportamento delle persone. Dottoressa Pacifici, i consumi sono diminuiti, 1 milione di fumatori circa in meno, ma sappiamo che spuntano le alternative alla tradizionale sigaretta. Qual è la posizione dell'Istituto Superiore di Sanità? Guardi, il problema che noi vediamo sostanzialmente è questo, che i nuovi prodotti messi sul mercato ancora non sono stati inseriti nella legge Sirchia. Questo ha determinato in molti dei consumatori di questi prodotti il dubbio, almeno, o la convinzione anche di poterli utilizzare laddove oggi è vietato fumare le sigarette tradizionali. Ecco, noi temiamo che questo in qualche maniera vada a diminuire la portata, soprattutto, come dicevamo, educativa della legge Sirchia. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto oggi in diretta Facebook insieme al dottor Stefano Erzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per consigli per i genitori per insegnare ai figli di tutte le età un buon rapporto con il cibo. Non mancate, vi aspetto, una buonissima giornata da Nicoletta.